subito scende matto. Sto andando bene, piano piano vedo che sta schiovendo, si è un po' ristretto, piano piano già sta andando. Ormai si dilata, si allarga e si fa più chiaro. Sì, è molto più chiaro, ma poi sta stringendo, non è molto, molto largo come inizialmente, anche perché la notte lo sto sganciando, almeno il braccio, la spalla no, ma il braccio lo sto sganciando dalla fascia, e quindi lo allungo appena di più, capito? Quindi magari il sangue circola meglio e respira. Interessante che muovi un po' il braccio, perché se no già lo sai, col caldo, mamma mia, che si piaga, non ci voglio pensare a quella che è venuta a me la piaga. Se mi ha messo l'alcol, mia sorella mi ha fatto quelle stelle, vabbè, però me l'ha fatto guarire. Ti dico la basca. Chi è costui? Credo che sia, Daniele è pazzo, per me Daniele. No, io tutte le mattine me lo lavo con l'alcol, ma col sapone, con lo nero, troppo con l'alcol, tutto, e quindi respira bene, poi sotto le ascelle mi messo un po' sui peli e quindi va bene, insomma riesco a pulirmi bene, capito? Ma mi ha fatto un anche a me, appena proprio leggera, è una piagliettina, però me la sto pulendo tutte le mattine con l'alcol, perché sotto dove c'è la fascia, maledizione, ma è piegato il braccio, è un casino. E beh, Daniele. E gli amanti l'avete di dietro, ci sono. Ho detto, vai a casa. E non ci sono anche dei portissimi. Partenza, direzione Città del Corallo. Voi ci state, che stamattina sono andato. E non è ritorno di Bratavola. Sì, non so se vuoi Bratavola. Quanto vuoi la tua bicicletta che sta qua? Tutti i via la riera, Andy. Ogni sera devo andare, ma mi piacerebbe andarci anche tutto il giorno. Guarda, a dirti la verità, già ormai la conosco meglio di Sassari, solo per trovare i clienti, se non li trovo a casa, dove portare i pacchi, giù i numeri di telefono, non mi metto nessun problema, capito? Cavolo, vabbè, a furia di andarci, impari le vie e tutto. Io per dire giro meglio produttore delle Sassari per le vie. Le vie di Sassari, sono girato tutte a Sassari, ma a volte le vie non me le ricordo. Invece a Portatore per forza me le devo ricordare. A chi non voglio di fare i consegni devo sapere di andare. Cavagava. Ciao Massimino, se sei passato su questo canale ben incrociato domani. Ciao Massimo. Adesso già c'è il tonton, se puoi fare i ricordi, col tonton fai tutto. Mia moglie è disperata, quando dobbiamo andare a Cagliari, dobbiamo andare lì, dobbiamo andare a Riola a trovare quello. Già c'è il tonton, ma problemi di buoni. Ha telefonato una all'altra, ma dov'è più o meno che si va per andare a Riola, a Sardo, eccetera, eccetera. Col tonton sono arrivato tranquillamente, mio padre sino alla porta di casa. Cavagava, non ci sono problemi, poi adesso anche arrivo all'archero, se ci sono oggi troviamo anche gli amici modulatori lì, all'archero, Franco, Valerio, adesso anche Roberto, ce li sentiamo, anche a loro, gli avevano compagnia anche a loro, se non sento a voi ci sono loro. Ma da casa modula? Caparoglio è positivo, Valerio ci ha fatto in fissa, Franco lo stesso, Roberto ce l'ha in macchina, però più che altro lo usa a casa, si deve mettere un'antenna adesso in alto, pare ce l'ha brigata a tratta Roberto. Franco è cosa che conosco, ma Valerio li conosco, ma Roberto non l'ho mai sentito. Franco e Valerio sì, sul 15 li sento ogni tanto. Magava, avanti qua. No, io non li conosco lo stesso, però li sento spesso sul canale 15. Sia uno che all'altro li arrivano molto bene qua. E ci hanno messo la Mantova da poco qua. Salendo Adesso se incrociamo un po' di traffico. Vabbè, c'è un mercato, c'è anche lo quindi. Cava, cava. Ma oggi a proposito non c'è sollevato per niente, per niente. E invece non ne hanno voglia. Non ne hanno voglia di parlare con la Sardegna. No, stamattina c'era qualcosina, ma per appena sono riuscito a parlare con un arcobaleno in nord della Germania, mi ha salutato e poi ho finito. Il 45 è provato. E allora roba, sempre su quella canaletta. Pagato. Ma che c'è quel rumore strano? Ma girati un poco fa, vi. Qualcuno ve lo fa apposta per rompere le scarpe. No, lo sentivo a sorso, sì, lo abbiamo fatto torre, c'è l'alghiero, ieri sera. È un segnale proprio espansivo, da tutte le parti si sente. Cava, cava. Noi sono in controllo di tiro, e ora è quello. Cappa. Apparecchiatura o qualche cosa, ma deve essere roba potente perché a livello di ripetitore roba così, perché se si sente tutte le parti roba massiccia, ma ricordo che lo salvo, no? Claudio, è entrato, sì. Ma quello lì tu dove l'hai fatto l'apparecchio? Cosa? L'apparecchio che stai usando dove l'hai fatto? Quattro muri. E dove è questo quattro muri? Giù, a Cagliari. Chi è? Non si dice. Sì. Tanto tutti i migliori li conosce Gigi, quindi ci ho bisogno già. A me questo apparecchio che sto usando, io l'ho voluto lasciarlo normale, se no me l'avevano detto che se volevo potevo farlo super galattico. Cavolo, Benedetto, come quelli di domenica, allo stesso che l'ha fatto domenica l'ha fatto. Quello lì come con stacca e attacca? Quale? Quello mio? Cosa c'è? Calamita? No, è mio fatto qua, non so chi niente, c'ho due tassini. Ho schiacciato perché stavo c'è una cosa qui, ho sentito una cosa al televisore, stavo ascoltando, scusa. Cappare comunque ce ne sono un bel adesso che vi fanno gli appalti, addirittura adesso quelli lì arrivano già fatti con il primo modulatore, camera ecco, luci blu anche nello smitter, le cose dei canali. Cosa ti posso dire? Tutte le modifiche che si possono fare escono con 30 watt, livello di esportazione. Già, ormai li trovi già pronti, belli pronti. Adesso per esempio se tu vai, guarda, sugli amici miei, sono amico su Facebook, non mi hai ammettita. Se tu vai su Facebook, devi digitare Mr. Mambo. Thank you. facendo un rumore. Vediamo un po', Claudio, risolto. Ma è sacco della batteria. Se è pronta, vado con Ilaria e la rettiro, o vale se la rettina, non c'è problema. E lì con la concessionaria lì c'era la macchina di Liliana, l'abbiamo versata lì, se dovevamo fare demolire, e poi lì hanno detto che se la aggiustava se la teneva, perché mi ha detto se dava bene di motore, ho detto è un gioiello di motore, e allora diamo una rinfrescata, invece la teniamo. Non viene ancora con l'imperiale? No, lì è, c'è scritto, c'è il coso della, degli sportelli, auto-elegance, PGU, e la stanno usando loro per uscire, per fare interventi. Ah, la riconosci, guarda che c'è l'attacco dell'antenna, la riconosci da quello. C'è una banda bianca, quella lì, poi c'è l'imperiale, quindi la uso andando a prendere il paese per andare a fare interventi, No, siccome non vuole trovare la macchina sostitutiva, quello là fuori, ha detto, ma non mi dai la banda, no, quella è la nostra, mi ha detto, quella è la nostra, tipo la stessa macchina, tipo la Smart nuova, di questo colore, sono quelle che diamo le macchine di cortesia, capito? Quella è matricolata, non fa quel passaggio direttamente a loro. È sempre un rischio, perché se capita di chiudere la chirurgia, così sarebbe bagata, è un rischio sempre, ma perché tante volte non sai come fare, se devi andare a lavoro, così fa anche comodo. Anche in cortesia? No, anche in cortesia c'è la casco, non c'è il problema. Per fare quello che ti piace, anche se te la ruba, non succede niente. Anche in cortesia c'è la tutta la casco. Siamo la casco, poi anche quella di nuova di Laria fa 2 anni, io assicurazione però. L'ho comprata con assicurazione furto, incendio, tutto quello che atti vandalici gratis per 2 anni. Allora i 24 mesi come scade, allora devo fare o rinnovo quella o la faccio per i fatti miei, capito? Era così con lei. No, però c'erano tutto la casco con le cortesie. Non c'è problema. Loro vanno dare una classe A, so che non è rientrata in tempo e quindi mi hanno dato di nuovo la Smart. Se non mi dovevano dare la classe A per un paio di giorni. E ce l'aveva uno di Alghero. Io sono andato la sera a prenderla. Invece dice rientrava di mattina, però di mattina le si arriva la macchina e la per andare al lavoro, perciò ho preso quella che c'era pronta. Kappa. Vabbè, interessante averne una, tanto per muoversi. È un casino. Allora, gli voce agli anni, se invece ce l'ha fatta agli anni. Se ci vedi là, fiuti, l'ultima volta io, no, poi ho pagato 350 euro. Aha, chi è avanti? Aha. Aha. Avietto? Ehi, Giuseppe. No, già, ma io ce l'ho per contratto, no. Sino a quando la macchina è garantita, c'è 5 anni di garantia la macchina, capito? E 2 anni di assicurazione gratis, non pago niente. Quindi per 5 anni loro a me ne devono dare la macchina sostitutiva, per tutti gli italiani, che se la tengano un giorno, che se ne tengano 2 giorni. consuma l'acqua, ci sarà la guarnizione attestata consumata. Cappa, e adesso mi alle 3 la porto da Palmino e vediamo cosa mi dice quando la sciaglia e me la fa, vediamo un po'. Altro colpo. E chi mi dice? Minimo vivo i 30 su 50 euro se la guarnizione attestata. Un bel rinascio. Vedi tutto smontare la testa, eccetera eccetera. E probabilmente è quello, Giuseppe, se la consuma l'acqua, ma ti fa fumo bianco. Ma niente, ragazzi, lo sbaglio mio, lo fai già. Si è messo olio in più più del dovuto, ho capito. Allora sono andato da Roberto, già Claudio, ma ha capito che e me l'ho fatto togliere, ce ne ho 7 litri in più. Ragazzi, i litri di contene, diciamo, che si pensate di 4 litri e mezzo con la cartuccia. No, ce ne erano 3 e io ne ho aggiunto altre 4, ho capito? Perché ne ho aggiunti? Perché pensavo che stava mancando l'olio, invece anzi ce n'era anche troppo. Allora ho preso davanti a Roberto e ma attaccato la pompa e mi ha girato questi colpi, mi ha detto devi fare 100 km e poi lasci mettere a posto da solo. Scusa, ma scusa, la sfida non l'hai controllata prima di aggiungere? L'avevo controllata, ma è il fatto che quella sfida è qua, lasciamo perdere. Comunque, te l'ho controllato, ma pensavo che ce ne voleva e io gliel'ho aggiunto. Mezzo aggiunto ho fatto la vacanza mia. E vabbè, gli sbagli si fanno. Vabbè. Avanti il becco con la buonasera. Buonasera Claudio, buonasera anche a Terentino e a tutti gli altri. Antonio Bombo la stessa parte. E oggi ma che fai, cazzarola? Non la togli la pinna, te la guardi prima di buttare olio così. Lo sbaglio. Vabbè, basta. Ma ieri notte, ma ti sei addormentato? Stavamo chiamando e ti sei allontanato. No, sono dovuto andare per una cosa urgente. È per quello che me ne sono andato. Perché con Claudio ho detto, ma Antonio, Antonio dove sei? Che è successo qualcosa e ha dovuto mollare. Ho dovuto mollare sì, perché sono dovuto andare a fare una cosa. Scappa. Ciao, Claudio. Ciao, Antonio, buonasera, ben sentito. Quando capita così che al volo devi mollare, non è che puoi avvisare, capito? Poi siamo venuti con la mano veloce, abbiamo avuto passaggi in gorsi e quindi non ho avuto modo di avvisare. Va bene, va bene. L'importante è che sia andato tutto ok. Cosa stavo dicendo? Non me lo metto più. Vabbè. Ah, Giuseppe, infatti c'è il diritto di latina, controllare il livello e vedere se dovevi aggiungere o meno, perché buttare così dentro è un casino, quasi che l'abbia, che il problema era quello, quindi c'è a pulire tutto e fare il livello giusto e già va bene, avanti già. Ma tu hai camminato con tutto quello di in più, Giuseppe? Ho capito già. Hai camminato poi con tutto quello di in più e te ne sei accorto subito? No, me ne sono accorto quando stavo andando a lavorare, che stava facendo un fumo bianco, l'ho portata a mettere a Roberto e ma ha detto, ma non mi viene a me, cazzo c'è il rischio, cazzo che tu fondi, no, che mi... Cazzo, vai, aspetta, ti faccio il lavoro, te ne tolgo quelli che ci sono più poi, e te la metto a posto un po' io, e così è stato, e mi ha controllato l'altra, ma ha detto, adesso va bene. E lì deve essere, si è mischiato liquido con l'olio, il liquido radiatore con l'olio, faceva il fumo bianco per quello sicuramente. Ma deve essere, si è crepata la guarnizione attestata, sicuramente si è bruciata. No, ma adesso l'ho provato, come gli ho pulito le candele e tutto quanto, bene, gli ho pulito anche i cosi per dove si infila le candele con tutto quanto, la sboccita gliel'ho fatta togliere e tutto quanto, hai capito, con lo scottage è tutto pulito e l'ho provata, è capito, gli ho aggiunto l'acqua e tira come cammina normale, come camminava prima. Ma l'acqua perché la dieta lo sta facendo andare? L'ho messo l'acqua perché il liquido non ne ho, lo devo comprare. Cazzo, però non volevo con il liquido, mi chiuse, due sono le cose, ma l'acqua te la rigenisce tutto, già lo sai, lo incrosta, lo fa, ma non ti conviene mettere acqua, conviene il liquido radiatore direttamente. Andare a città mercato, te ne comprarvi uno, cazzo, di quelli che costano poco, ma non è il liquido. Lo so, adesso domani dovremmo fare un'uscita, dobbiamo scendere giù a città mercato, dopo che finisco il lavoro devo scendere a città mercato perché devo comprarmi anche le canne di nuovo, per vediamo un po' quanto liquido. Appaga. Già lo sai che sono quelle lunghe, con la doppia punta, sì. Mi sembra che c'è già quella macchina. Se non mi ricordo male, quel motore indura, mi sembra che c'è già così, sono a doppia punta lunghe, fine. Con la chiave fine, se non mi ricordo male. Cazzo, tu sei esagerato, guarda, hai passato tutto, hai fatto un casino nero. Per caso la mattina voleva tolta, controllata. Almeno buttaci acqua da bere, mettici, non mettere acqua del rubinetto. Perché la fai il rubinetto c'è calcare che non viene bene a dire. C'è proprio per fare una cosa un po' più ben fatta. Che serola. Ma l'acqua non era l'acqua del rubinetto, Otto, non è l'acqua del rubinetto, è l'acqua del radiatore, del condizionatore, della pompa di calore, capito? Ecco l'acqua distillata. E quella lì sto mettendo, quella. Io c'ho un bidone da 10 litri pieno, e ogni tanto me lo svuoto, lo metto nel bidone di 5 e me lo lascio in macchina, capito? E quella di acqua distillata, allora la usiamo anche per spirare, va bene. Quella io sto mettendo, capito già. Però Giuseppe, metti il liquido, scarica quell'acqua e metti il liquido, perché il liquido è raffreddamento, scalda di meno, capito? E dà l'opportunità al recircolo stesso di lavorare meglio. Con la temperatura che c'è adesso è meglio mettere il liquido refrigerante. L'acqua è vapo. Adesso vediamo domani come se la città mercato me lo compro un litro di liquido raffreddamento. Cosa cazzo un litro? Mica c'è da fare cada 5 litri in casa che costa una fesseria a me. Non l'ho pagata neanche 6 euro io l'altro giorno. L'appunto c'ha una cosa che consuma un po', che perché vabbè c'ha tanti chilometri, c'ha anche un bel po' di chilometri quella macchina, però io li controllo ogni tanto, ogni volta al mese li controllo, l'olio li controllo, il liquido glielo aggiungo sempre, ne aggiungo un tc, un pochettino, metto la lattina, lo controllo e cosa, ed è sempre perfetta, non dà mai problemi, perché purtroppo quando con le macchine lì, quando arrivano a un certo numero di chilometri, devi essere così, devi controllarglielo. Togli la linea, glielo controlli, se ce ne aggiungi un po', ne aggiungi un po'. Poi a quei chilometri lì prendi, glielo cambi tutto a 10.000 chilometri. E va sempre bene, va. Vabbè, dai. Ok, grazie per le informazioni. Ragazzi, vi prendo io, vi lascio, ci sentiamo stasera. Facciamo così, non è sempre la pastiglia, così ci sentiamo più tardi, dai. Siamo fuori tutta la gira, non ben radio. Un abbraccio a tutti, ciao Bombolo, ciao Gianni, rimettiti presto, riposati un pochino anche tu, e ciao a te Giuseppe e tutti gli eventuali ascoltatori. Ci sentiamo stasera, ciao a tutti, quel ricchi per me, tutto acceso qua dopo. Ehi, allora, ciao qua, con quel ricchi, sentiamo stasera. Qua, con quel ricchi, ce la ricettiamo, avanti da oggi. Va bene, ciao qua, ci sentiamo stasera, ci continuerà. Ciao, buon pomeriggio. Gianni, ancora il cagotto c'hai? Ma cosa vuoi accelerare la parì? Gianni, ancora il cagotto? Sì. Oh, non la cogliamo. conoscenza del tuo bagno. Grazie, buonasera. Sono così a casa, c'è la febbre. Ehi, allora è grave. Allora è intossicazione. Infiammazione più che altro. Ma che cos'è del colon? Non lo so, penso che c'è qualche infiammazione, perché è salita anche la febbre a 38,7, 38,8, ce l'avevo. Non è altissima, ma è un po' alta. E vabbè, là, già passerà. Avanti, Giuseppe. Sì, non ho capito chi è. Rubino. Buonasera, signor Antonio Grotte. Giuseppe, cos'hai, pasticciato la macchina? Un mezzo casino. Chi si mette l'olio delle patatine da friggere per risparmiare, c'è chi si butta su di con loro. Guarda che c'è una chiamata, Gianni, c'è qualcuno che sta chiamando. Banzi. E che chiama? Per un pezzettino piccolo, però non l'ho più sentito, mi è sparito anche a me, non lo sento. Lido di Alghero, Daniele, dai, vi saluto a tutti. Ciao, già, sentiamo più tardi. Contracca, vi saluti, ciao. Avanti, avvicinati, Dani, così poi ti sentiamo, vai, avanti, gode. Il problema è che mettendolo nel serbatoio una macchina diesel funziona e risparmi, mettendo troppo olio al pari di metterne poco, perché lo... non è che si chiama lo, il termine giusto è non nebulizza, però lo centrifuga a tal punto perché va a sbattere contro le bielle che ti crea problemi, perché lo non riesce più a tirarlo poi la pompa dell'olio, capito? Pressione sta tutto spazio, la pressione è se non c'è diciamo la parte libera per sfogare, va in pressione che faccio tutto grande. Cappa di Roger, poi se, come ti ha detto giustamente Gianni, se ti sei ritrovato liquido del radiatore, o meglio nel liquido del radiatore hai trovato olio, allora ci hai sfasciato la cosa, hai bruciato la guarnizione testata, e lì sono 500 euro. Tu 350, no, è possibile anche 350, perché fa smontata, va portata, allora non so se adesso c'è ancora Grassi, deve essere spianata di nuovo, cambiata la guarnizione, è rimessa e ti costa una barca di dinamo. E lo fa capelli, sono i capelli, non grassi, capelli, scusa. Paga, sì che c'è, alle conce adesso, si è trasferito. Ricordo che prima, dove c'era adesso la ciclofficina, prima lo stesso c'era, era lì i capelli, se non sbaglio. C'era la vasca dove faceva proprio, dove spianava le testate. E vabbè, ma già le fa anche adesso, penso. Perlomeno. Dovrebbe farle, non lo so, c'è il negozio adesso ha trasferito le cucce un po' prima di Eurospin dall'altra parte. Bravo Vinto Pizzino, quello che ti è avvicinato bene, no, quello è bravo, facendo quell'amore lì. E anche Salvatore ce l'ha bravo, ma adesso ci ha lasciato qua. Era anche, diciamo, onesto, Salvatore. In Austria è andato. In Austria? Sì, ha chiuso anche a Calangiano, si è partito in Austria. Ci hanno sentito la settimana scorsa. E a Fagosa? E a lavorare già. A Calangiano si dice che non c'era lavoro e quindi ha messo tutto dentro un container, l'ha spedito in Austria, lo sai che lì c'era un cognato, lui, un parente, comunque. In Austria, Austria. Ui, magazzino. Triste. Ti dirò. Paga. Un casino, è troppo bravo Salvatore, non se lo meritavo alla fine così. Vabbè. Non è esattamente così, ti dirò, va. Ok, dai. Andare avanti. Che è rimasto, Leoncino. Pappa, vabbè. Ma che sta parlando di bar agricola? No. E allora? Di Salvatore Maestra. Ah, cappa. Quello che facevo le testate prima. Cappa, vabbè. Adesso vediamo. Vediamo un po'. Sì, alle 3, alle insomma, tra un po'. Ma vicino lì da quello lì, dove fanno le scuole guida, dove si fanno le scuole guida lì su, c'è un meccanico lì, Palmiro, io dico se me la controlla, quanto è il preventivo. Cavolo della amico di Carlo, allora. Da chi? Da Walter, quello che c'è vicino alla Roma. Fuck.